Dunque, io devo ringraziare Padre Giulio per la fiducia accordatami nell'avermi chiamata a presentare il suo libro. È un compito arduo soprattutto perché non sono un'esegeta e non sono una teologa, ma ci unisce l'amore per un popolo che Dio ci ha fatto incontrare nel nostro cammino. Se lo tenga più Più vicino, vicino? perché È acceso? sì. Sì? Ah, sì. Dicevo, è un compito arduo, ma ci unisce l'amore per un popolo che Dio ci ha fatto incontrare nel nostro cammino, non si sa perché. Dio ci ha fatto incontrare un popolo a cui ha dato un messaggio, e ha dato un messaggio a noi cristiani che è dato da scoprire e capire nell'universo del mistero della salvezza. Io mi occupo prevalentemente di storia dell'Islam nel suo primo incontro e scontro con la cultura cristiana circostante, nei secoli VI e VII secolo d.C., quando ancora i musulmani erano stati accolti come una setta eretica cristiana. Parlavano in fondo di Cristo, di Maria, Maria madre di Gesù Cristo, di Abramo, primo musulmano, di Adamo, del Dio unico e soprattutto del Dio unico. Erano chiamati Agareni o Ismaeliti, Agareni figli, discendenti di Agar, madre di Ismaele, e quindi Ismaeliti, discendenti di Ismaele. Che cosa è avvenuto in questo momento? Qual è stata la forza prorompente di Maometto e dei suoi seguaci per aver influenzato in tale dimensione, in tale estensione il corso della storia? Questo è di ciò di cui mi occupo. Ritornando quindi a Padre Giulio e al suo libro. Padre Giulio per tutta la sua vita e soprattutto dopo il suo incontro con Louis Massignon, che tutti più o meno conosciamo, non ha cessato di scrutare con insistenza il linguaggio e la dimensione spirituale dell'Islam nella storia della salvezza. Padre Giulio ha intrapreso da anni il difficile e controverso cammino di una rilettura cristiana del Corano, un cammino che è stato intrapreso anche nel XII secolo da Paolo di Antiochia, monaco melchita e vescovo di Sidone. Chi si interessa di questi argomenti può leggere e studiare Paolo di Antiochia dal libro pubblicato da poco di Paul Curie, professore libanese che attualmente insegna in un'università in Germania, non mi ricordo più quale precisamente, ma so che insegna in un'università in Germania. E parla anche di questo Paolo di Antiochia, Jean-Marie Godel, un padre bianco, francese su Encounters and Clashes. A proposito, nella sua panoramica della polemica apologetica islamo-cristiana nel corso della storia, e cita anche Bassetti Sani. Attraverso un esame, quindi, del testo coranico, Padre Giulio riconosce nelle figure menzionate da Maometto come profeti, simboli, lettere alfabetiche dell'Antico Testamento, evocazione dell'annuncio del Messia e della tipologia cristologica della tradizione giudeo-cristiana. Padre Giulio vede nel messaggio di Maometto una duplice missione, una rivolta verso gli arabi, beduini, pagani, popolo semita, abituati più a simboli e a segni che ha concetti astratti per esprimere il pensiero divino, e una missione rivolta agli ebrei, gli ebrei che non avevano accettato Cristo come Messia, agli ebrei perché attraverso tutte le evocazioni profetiche e simboliche dell'Antico Testamento potessero riconoscere la figura tipologica di Cristo come loro Messia. In questa scelta si può capire che può essere criticato, Padre Giulio, perché i musulmani si potrebbero sentire offesi o violentati nell'analisi del loro libro. come se un musulmano desse una chiave interpretativa propria al Vangelo. Ma lo si può anche vedere come stimolo o proposta ad esaminare con occhi nuovi la propria fede e qui trovare una chiave al dialogo islamo-cristiano un po' fermo su posizioni stanche, trite, ritrite e irreversibili. È un momento di stanchezza nel dialogo islamo-cristiano. Facciamo degli esempi. Il Cristo, dai musulmani considerato profeta e dai cristiani figlio di Dio incarnato. Il Corano per i musulmani parola diretta da Dio, increata e intoccabile. Il Vangelo per i cristiani parola di Dio ispirata e trasmessa da uomini. Tutte posizioni che si sono fissate nella storia e che non trovano nuove orizzonti per aprire una nuova chiave di lettura al libro del Corano e al dialogo islamo-cristiano, quindi. D'altra parte, voglio dire, anch'io nella mia ricerca sto facendo la polemica islamo-cristiana esaminando un autore dell'VIII secolo, un teologo, prosatore, che scrive a proposito dei cristiani. Fa citazioni bibliche, sia dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, parlando a proposito dei cristiani e degli ebrei, i cosiddetti non credenti, i kafir, ma i zunni. Però questa lettera è di stimolo enorme per me, di stimolo per approfondire di più la mia fede, verificare la mia conoscenza e constatare quanto ignoranza possa creare divisioni. Quindi la proposta di Padre Giulio può aprire questa nuova chiave di lettura. Alla luce del dialogo c'è da chiedersi se sia meglio dire che il Corano è falso e che non è parola diretta di Dio, o è meglio fare delle proposte. Cosa offende di più i musulmani? Proposte in questo caso che gli esegeti, soprattutto gli esegeti, potrebbero giudicare se sono solo provocazioni o ci sono dei fondamenti per formulare delle ipotesi di lavoro. Capisco che è necessario difendere la propria identità. È molto importante e oggi più che mai lo si sente questa esigenza con tutti i insorgenti nazionalismi, regionalismi, fondamentalismi, integralismi. Ma reclamare un'identità non vuol dire chiudersi al confronto, alla verifica, al rispetto degli altri. La verità è un cammino, non è qualcosa di statico e di già raggiunto, di già definitivo. Tayyar Deschardin ci ha educato a questo. Concludo quindi esprimendo a Padre Giulio tutto il mio affetto e rispetto per una vita appassionata spesa interamente alla ricerca di un dialogo con l'Islam sulle orme del suo maestro Louis Massignon, una ricerca che non ha conosciuto soste nel coraggio, nonostante le tante avversità. Auguri, Padre Giulio, le siamo tutti vicini. Sì.